facciamo i player più magic, truffe magic, il mio modo di fare magic. Cazzo non lo vedi, magic, truffe magic, queste rime sono magic. Alle bad girl piacciono i player più magic, truffe magic, il mio modo di fare magic. Cazzo non lo vedi. Cosa succede per se strade vuote, dove i player lasciano l'odore delle ruote? Fanculo Armani e D.E.G. lontano dalle mode, pompano via, ci corrono e non sanno dove. Non sanno immaginare dove si può arrivare, con un fottuto gente in bocca si può volare. Quale movie o pare, m'ho visto culo compare. Cervello 24 su 24 su qualche affare. Che cazzo credi che sia facile in sti tempi di merda riuscire ad essere magic? Hey, damn, tu non avere problemi con me, ne ho già abbastanza per poter pensare anche a te. Player, quei vecchi non fanno di te un rapper, quindi levati da cazzo homie, potrei salire sul palco con le molle. Te hai vecchie, può darsi che ti scasso perché me, magic, truffe magic, queste rime sono magic. Alle bad girl piacciono i player più magic, truffe magic, il mio modo di fare magic. Cazzo non lo vedi, magic, truffe magic, queste rime sono magic. Alle bad girl piacciono i player più magic, truffe magic, il mio modo di fare magic. Cazzo non lo vedi. Cosa succede per se strade vuote, i player lasciano il cervello nelle mani delle droghe. Anch'io l'ho fatto, in quel momento ho detto me ne sbatto, che l'unica opzione nella cartella qualcos'altro. In questo posto squallido devi essere bravo a scrollarti sacca dal cazzo in un attimo. Io non faccio clap clap per farti saltare, faccio saltare i club un po' come mi pare. Stupefacente naturale, che gusto ci provo a andare in giro fatto per le strade, tra le palle d'ingegno. Non so cosa si debba usare meglio, ma devi averli e restare sveglio. Se m'ascolti, se sei magic, scappi con i soldi, fotti tutti come Renton in tre spotti. Se questa vita è da scopare come una puttana, faccio il giro due volte, tu chiamami pastrana. Magic, truffe magic, queste rime sono magic. Alle bad girl piacciono i player più magic, truffe magic, il mio modo di fare magic. Cazzo non lo vedi. Magic, truffe magic, queste rime sono magic. Alle bad girl piacciono i player più magic, truffe magic, il mio modo di fare magic. Cazzo non lo vedi. Magic, qualcosa di magic in più per queste strade fare. Beh, direi pre, direi tutto più magic. Quanto è magic, ora il tuo